Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci qua, cari ascoltatori, in questa assolatissima Milano che si prepara all'ennesimo ponte. Ma che disastro questi ponti, ragazzi, che disastro. Ci abbiamo i compari in studio di Conti da Belvara e vi ringraziamo come sempre per l'ascolto in diretta o in podcast, e vi invitiamo a scriverci non solo per rivolgerci con contumelie ma per sapere opinioni, tesi eccetera. I compari oggi in studio: Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ma oggi è venuto come in moto, in astronave. Sì, come dobbiamo smettere di far ponti, dai. Fino a fare il PIL se continuiamo a fare i ponti. Paese di ingegneri. Ma non esiste. Ma questo lo diceva... ponti crollano e noi continuiamo a farli. Esatto, capite? Lo diceva già Tremonti. Sono convinto che devo fare un grande ponte che finalmente ponga fine a questi problemi di continuità territoriale della penisola italiana e faccia anche lui un po' di PIL keynesiano. Non siete d'accordo? Cioè, questa è più o meno quello che fanno i trafficanti di carne umana nel Mediterraneo tutti i giorni. Guarda, sia come ponte, sia come PIL. Per i fatti loro. Però detto tutto questo, allora di che cosa parliamo oggi? Per darvi l'idea di telefonarci all'800240024, dopo il consueto appuntamento iniziale in cui facciamo il punto dei dati macro italiani e internazionali della settimana, dedicheremo la prima mezz'ora di trasmissione fino al giornale radio a capire la riforma Trump del fisco, quanti rischi, quante novità, cosa c'è di non scritto, ha possibilità poi davvero di essere approvata, cosa vuol dire per l'Europa e per noi. Ecco, dopodiché ovviamente invece andiamo alla vicenda di Alitalia. Andiamo alla vicenda di Alitalia, con noi sarà per Trump e il fisco il professor Stevanato, tra gli altri siamo un altro ospite. Per l'Italia abbiamo con noi il professor Riccardo Gallo e Massimo Mucchetti, quindi due visioni diverse su cosa deve fare o non fare lo Stato. Poi dedichiamo un quarto d'ora anche insieme a Marco Bentivoglio, segretario della CISL, alla riflessione in vista del primo maggio sul sindacato nuovo, qui tra referendum in cui i sindacati vengono sconfessati, crisi della rappresentanza, non c'è solo quello dell'Italia, era successo anche sulla vicenda Almaviva con la segretaria CGIL che aveva detto ex post, avendo lei firmato l'intesa smentita, ha detto beh con il senno di poi le RSU avevano ragione, beh, allora però aboliamo i segreti, le confederazioni nazionali. Ecco, questi sono più o meno i temi della trasmissione di oggi, quindi meno tasse con Trump, ma crederci, o poi all'Italia cosa fare, liquidazione o lo Stato rinazionalizza e quale sindacato. Ma oltre a questo, rapido giro dei presenti compari per altri temi. Che vi ha colpito in settimana, Mario? Allora, questa settimana, rispondendo ad un'interrogazione alla Camera, il ministro Padoan ci ha fatto sapere quello che già sappiamo, cioè che lo Stato incassa per canoni di concessioni demaniali su stabilimenti balneari a 103,2 milioni di euro l'anno, il che vuol dire 6.106 euro per chilometro quadrato di concessione demaniale. Considerando il numero degli stabilimenti balneari presenti in questo paese, sono 4.000 euro all'anno per stabilimento. La cosa più divertente è che c'è una enorme dispersione di questi dati da regione a regione, perché ad esempio se la Toscana e la Liguria incassano ciascuna più di 11 milioni di euro all'anno, il Lazio 10 milioni, la Romagna 9 milioni, quant'altro, abbiamo la Sicilia che, se il numero è corretto, incassa 81.000 euro. 81.000 euro. Mamma mia, che somma. La Sicilia pare che sia un'isola. Adesso, l'ultima volta che ho controllato, la Sicilia era un'isola. Non era ancora il ponte collegato, no. E la Basilicata, 452.000 euro. Allora, cosa ha fatto il governo italiano? Ha inserito l'efficientamento, la valorizzazione, cioè incassare di più da queste concessioni demaniali nel piano nazionale di riforme che ha mandato alla Commissione europea. Campa cavallo che l'erba cresce. Questo conferma che in questo paese l'iniziativa privata a volte si sposa con pulsioni all'esproprio proletario, nel senso che la gente si prende concessioni demaniali, suolo pubblico, ci fa quel cavolo che vuole. Allora il deputato Mazziotti di Civici e Innovatori ha avuto un'idea che secondo me è molto smart, che se verrà attuata, cioè quella di mettere all'ingresso di ogni stabilimento balneare un cartello che indica quanto quello stabilimento paga di concessione demaniale. Non avverrà mai. Ecco, però, allora, questa lo facciamo presente a tutti quelli che urlano no alla Bolkestein, no? Che con queste cose che vanno in piazza, gridano no ad affamare i poveri titolari di concessioni, eccetera. Attenzione, perché questi sono soldi di tutti noi contribuenti italiani, e questa cosa è, se permettete, un lieve schifo. Lieve schifo, mi sembra che tu usi un linguaggio moderatissimo, per una volta ti trattieni troppo, perché è una rendita a favore di chi paga niente, di chi si dipinge in pubblico come vittima di concorrenza impropria, di chi è disincentivato a investire, quindi estrae tutto il possibile a canone bassissimo per un mese, due l'anno, se ne fotte del resto, ed è così che crea un problema anche sistemico al paese. Sì, parlo in questi termini, generalizzando, cari concessionari balneari, perché questo sono le cifre che vi smutandano. Potete chiedere, come sempre, all'editore di cacciarmi, fatelo, l'avete già fatto. Quando l'editore lo farà, vorrà dire che avrà capitolato anche lui alle tante lobby di cui è insidiato all'interno, perché tanto poi è inutile non vedere che sugli alberghi il problema del conflitto di interesse con Confindustria è uguale rispetto a Airbnb. E io posso essere cacciato, ma non cambiare idea sul fatto che le vostre schifose rendite, sto parlando in questo parto della concessione demaniale, che è diversa perché gli alberghi non sono in concessione, a questi prezzi sono un furto che dovrebbe procurarvi qualche problema, non i sostegni che avete in pubblico. Però la politica è così. La politica si fa ricattare da voi per i voti e si smutanda. E in pubblico però siamo solo noi quattro gatti a dire queste cifre apertamente, mentre bisognerebbe mettere ai quattro cantoni del paese, bisognerebbe mettere 6x3 su tutti i litorali balneari dicendo: quelli pagano questa cosa ridicola, ridicola, che è molto meno di quello che voi pagate per portare i vostri figli, piccola famiglia italiana, per 3 settimane in vacanza al mare, sputare sangue tutto l'anno. Questa funziona così questo paese, che vi descrivono in tutt'altro modo. Il problema sarebbe del liberismo, il problema sono dei porci estrattori di rendita e dei maiali politici che prendono i loro voti. Inizio della trasmissione dicendo fuori dai denti, perché le cifre, puoi ripetere quanto è per ettaro il conto che vi hai fatto all'inizio? 6.100 euro per chilometro quadrato. Per chilometro quadrato, quanti telispugna potete stendere? Ma una roba da non crederci. Comunque, Oscar, visto che ormai sei con le chiappe al sole qui a pensare agli stabilimenti balneari, fammi tornare un po' più in alto. Cioè, vorrei fare un breve inciso di metafisica e mitologia finanziaria. Atlante. E no, perché qua adesso, come dire, noi siamo stati tra i pochi a dire: Atlante, ma scusa, ti vuoi far carico, caro Titano, del peso di tutti questi NPL di banche disastrate? E la verità è che ieri un amico carissimo, questa è la verità, come Alessandro De Nicola, ha capitolato sul fronte. Alessandro De Nicola in quanto rappresentante esatto. legale di cioè fa l'avvocato, poverino, deve dire cose che magari vorrebbe non dire. Ma cioè, comunque Alessandro De Nicola, rappresentante del Fondo Atlante nell'assemblea dei soci della Procura di Vicenza, ha detto: a breve Atlante non sarà più azionista di riferimento di queste banche. Ora, siccome è il 99, qualcosa per cento, vuol dire che la ricapitalizzazione auspicata, ma tutt'altro che garantita, diluirà il fondo Atlante di una cifra significativa. Sostanzialmente vuol dire che l'investimento fatto in queste azioni è evaporato completamente. È stato breve ma intenso. Ha detto anche che servono ingenti capitali non più disponibili a privati. Allora, fatemi capire una cosa. Atlante era stato costruito come un progetto privato, assolutamente senza nessuna pressione da parte della politica, per salvare le banche in difficoltà, fatemi dire, in spregio sostanziale alla normativa europea che dice che le banche le pagano, e i conti di mai li pagano gli azionisti correntisti e eventualmente appunto gli obbligazionisti con le conversioni. Ora prendiamo atto che dopo un anno almeno circa è definitivamente tramontato tutto questo. Prendiamo anche atto però che i valori a bilancio delle banche che hanno finanziato Atlante, banche, gestioni separate di Poste, gestioni separate di grandi assicurazioni, quei valori, dopo la dichiarazione di ieri, non possono stare a bilancio ai valori che sono stati postati. Francamente diventa imbarazzante. Cioè, quindi chiederei a tutti di fare un esame di coscienza sul fatto che queste iniziative di capitani coraggiosi, e qui introduciamo l'Italia, sono destinate purtroppo a schiantarsi contro il muro. B, i bilanci vanno rispettati, perché la trasparenza nei confronti degli azionisti è il primo dovere di un bravo amministratore. Allora, delle banche parleremo per forza sabato prossimo, perché sono in corso le assemblee molte BCC per la scelta delle capocordata, per così dire, e c'è moltissimo da dire su questo argomento, e lì torneremo più in generale sul problema delle banche che abbiamo in questa settimana. Possiamo parlare di banche tutti i sabati. Abbiamo lasciato un secondo nell'angolo, mentre, come vedete, continua la decozione, però, perché da questo punto di vista le cose più fanno passare il tempo, più del resto restano senza clienti, a cominciare MPS. Per me è un mistero come preferiscano prenderla alla lunga. Restano neanche gli scheletri fumanti. Però, detto questo, a sabato prossimo su questo noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua. Non è che facciamo riferimento a compagnie aeree con questo genere di citazioni. No, facciamo riferimento ai contribuenti italiani. Esatto, bravo. Vedi, che bello questa battuta. Oramai siete automi, potete fare a meno di me, non serve più neanche per fare le battute sul fisco. No, ma in realtà, ragazzi, qualche segno di frenata comunque questa volta, anche Gran Bretagna e Stati Uniti. Però Mario, da cosa cominciamo? Ma c'è stata questa settimana la riunione della BCE, nulla di fatto. Draghi resiste stoicamente a tenere la politica monetaria accomodante, malgrado le spinte, le pressioni dei tedeschi. D'altro canto, Draghi ha detto una cosa abbastanza così pacifica: le condizioni dell'economia dell'eurozona stanno migliorando, sono visibilmente migliorate, questo noi del resto ve lo diciamo da tempo, e però ci sono numerosi elementi di turbolenza esterna che potrebbero affermarsi, ma dopo lunga discussione i rischi sono ancora distorti, c'è un tilt al ribasso, cioè la situazione ora va bene, potrebbe smettere di andare bene. Ora è chiaro che Draghi cerca, come dire, Draghi, nella mia umilissima e modesta opinione, sta cercando di indurre un lieve surriscaldamento della congiuntura dell'eurozona. Sì. Cioè con una politica monetaria che finisca ad avere tassi reali molto stimolativi. Perché Draghi ritiene che praticamente la situazione sia che occorre riscaldare la congiuntura per assorbire una parte della disoccupazione. Una bull dell'acqua calda più che un riscaldamento globale. Però insomma, una scaldatina. È abbastanza palese che lui voglia fare quello. Poi un altro dato della settimana che è uscito ieri è quello sull'indice dei prezzi al consumo di aprile. Ora, premesso che questa situazione riguarda tutta l'eurozona, perché l'aumento dei prezzi riguarda tutti i paesi, per quanto riguarda il nostro paese abbiamo un più 0,3% mensile e più 1,8% sul tendenziale, e il mese scorso era più 1,4%. Questa accelerazione nel corso del mese deriva soprattutto dai beni energetici regolamentati. Cosa vuol dire? Che ad aprile scattava la revisione trimestrale dei prezzi delle tariffe energetiche amministrate, luce e gas, e questo ha impattato sull'aumento. Ma questo è la conseguenza dell'aumento nei mesi scorsi dei prezzi del greggio. Quindi non sta cambiando nulla. Sull'annuale, diciamo che passa da 1,7 a 1,8, c'è stato l'effetto Pasqua, nel senso che lo scorso anno Pasqua è caduta a marzo, quest'anno ad aprile, Quindi c'è questo effetto che si rispecchia ad esempio sulle tariffe aeree. Sono piccole cose, ma credetemi, non c'è nessuna ripresa dell'inflazione causata dal vigore della domanda. Questi sono semplicemente effetti confronto relativi all'andamento dei prezzi dell'energia. Siccome ieri casualmente ho sentito un telegiornale nazionale, la conduttrice, dire: abbiamo una notizia molto positiva, l'inflazione è al record da 4 anni, ora ci colleghiamo con la borsa per capire se il mercato sta festeggiando. Cioè, io dico, ragazzi, cioè, quando andate in conduzione lasciate il fiasco, perché questa mi pare la cosa minimale da richiedere quando si presentano dei telegiornali. No, a parte, diciamo, queste cose, questa è la situazione. Poi bisognerebbe parlare di Trump, ma lo faremo a breve, maniera approfondita. Lo faremo. Io vorrei continuare un secondo con qualche riflessione, perché da una parte la deificazione di Draghi, l'unico vivente nell'Europa, perché poi quando finirà il suo mandato ci renderemo conto forse di quello che gli dobbiamo nel disastro della politica generale. Ma detto tutto questo, lo stappare continuo, ogni volta che a ogni conferenza stampa della BCE lui trova argomenti come quelli che hai citato all'inizio per dare un orizzonte più lungo agli interventi non ortodossi della banca. E io lo so che siamo in minoranza, però chi come me la pensa in un certo modo sulla distorsione rappresentata da quegli interventi ogni volta capisce che bisogna essere conoscenti a Draghi. E dall'altra però resta un po' amareggiato, perché continua di volta in volta l'amplificazione della mispercezione di a cosa serve una banca centrale. Ecco, questo è un problema di fondo, cioè non vedere l'alterazione che su tipi di asset finanziario ha esercitato un intervento così potente mensile. Secondo me è un errore non vedere l'effetto che ha sui governi, cioè di dilatare l'orizzonte temporale di qualunque sia l'impostazione, sia di tipo domanda pubblica solo o interventi sull'offerta, dei loro interventi di politica economica, ma comunque come si vede nell'Italia, cioè l'Italia, scusate se vado al punto, nelle pernacchie che Renzi tira ogni giorno su chi prende troppo sul serio i conti pubblici, c'è l'effetto, come dire, l'effetto come se la certezza che tanto noi il paracadute, zio Mario Seminario, no, Draghi ce lo dà in eterno, perché ma cosa state lì a dire? No, uno che risponde alle primarie gli urlando gli fa notare: ma tu non fai più nelle tue conferenze stampa ufficiali, non le facevi più con la bandiera europea. Lui dice: ma quelli mi avevano chiesto lo 0, il giorno del terremoto, cioè delle cose così, cioè allora. Oppure ieri dice: si è fatto vanto di dire io sono qui a Bruxelles per dire no al fiscal compact. Per me è uguale alla Le Pen, non vedo la differenza, una cosa di questo genere. Allora, la riflessione, e volevo sentirvi, cari compari, sono io che, come al solito, come dice Renzi, questi sono i liberisti che hanno letto a malapena qualche libro. Forse persino più di te però, caro Matteuccio. Detto questo, è quello, perché poi lo può essere, ci sta che uno può dire, sei troppo attaccato alle teorie del fatto che la politica monetaria delle banche centrali deve essere il meno possibile intromissiva, per così dire, deve essere molto predictable, deve avere una linea di comunicazione per cui gli operatori devono sapere come si comporterà il meno possibile discrezionalmente, e per il resto non alterare troppo i prezzi. Questa è la mia poi impostazione di fondo, come è ovvio. Però, caro Alberto, mi sbaglio? No, non sbagli, però c'è una supplenza istituzionale evidente che sta facendo la BCE sia sul fronte della politica monetaria che su quello della politica bancaria. Ricordo che rimettere mano all'assetto bancario vuol dire toccare il nucleo fondamentale del potere politico in molti paesi, Germania e Italia. A proposito di Germania, scusate, su una banca importante, Deutsche Bank non era fallita, mi sembrava. Pare di no. È solo per dire. No. Sì, comunque, tu hai perfettamente ragione, gli effetti distorsivi sono evidenti. devo dire che non esiste il bene perfetto nella politica monetaria, e tra non fare niente o addirittura alzare i tassi, come è successo nel 2011, vi ricordate, no? Andando chiaramente in contrasto con quello che era, cioè il trend in Italia, è stato un danno grave alle scelte del nostro paese. E qui fammi ricordare che la precedente BCE ha fatto molto più male di questa. Trichet ha sbagliato. Direi proprio di sì, insomma, anche perché hanno sbagliato a leggere l'inflazione, hanno sbagliato a non tener conto del fatto che in questi contesti l'ortodossia non può essere applicata in maniera becera. Quindi, che dire, Draghi secondo me ha fatto un capolavoro tecnico e politico, e bisogna riconoscerlo. La BCE però deve smettere di essere l'unica istituzione che tiene insieme questa unione un po' sgangherata. E qui il problema è questo, che se le elezioni francesi e tedesche vanno in una certa direzione, forse dal 2018 si rimette mano a un'agenda che controbilanci lo strapotere, per quanto fragile, di una BCE con istituzioni un pochino più rappresentative e un pochino più trasparenti. Se no stiamo facendo una situazione in cui c'è una supplenza perenne che non può andare bene, e alla lunga, hai ragione tu, distorsiva. Anche perché, diciamo, noi siamo qui che stappiamo una bottiglia di quello buono quando l'inflazione aumenta, perché in questo paese qualcuno è convinto che l'aumento dell'inflazione risolverà i nostri problemi. Ma oramai hai visto che quando c'è uno 0-1 in più, danno la notizia come se fosse... No, però fatemi fare una critica. Noi l'inflazione bisogna che sia al 2% o appena sotto, perché se è troppo sotto, ragazzi, non va bene, perché tutti i business plan sono fatti sul fatto che c'è un minimo di inflazione. Sì. La deflazione o la inflazione zero non è nei patti, capite? Quindi non è questione di fare il tifo per l'inflazione. Aspetta, è questione di fare il tifo per la stabilità finanziaria. A patto che, come abbiamo spiegato molte volte, e questo voleva dire Mario, che non ha bisogno di me come interprete, però a patto che sia chiaro, serve un po' di inflazione quando esprime il fatto che c'è una ripresa in corso che fa riscaldare i prezzi. Certo, non sì. È che, perdonami, per provocare l'inflazione perché ne abbiamo bisogno, perché serve a fare un favore ai molti indebitati. Allora, hai capito, aumentiamo le tariffe pubbliche, che è il grande contributo pubblico alla lotta all'inflazione, per farla aumentare, per così dire. Ma infatti è la distinzione banalmente scolastica tra inflazione da domanda, che è buona, e inflazione da costi e da tariffe amministrate, che non è buona. Che però è, ricordiamo questo: quando l'inflazione aumenta e tutti siamo qui a brindare col fiasco in mano, dopo un minuto si dice: oddio, il BTP perde colpi, perché vuoi vedere che l'inflazione aumenta, allora Draghi smette di regalarci i soldi. Capito. Ragazzi, voi dovete fare pace col vostro cervello quando fate difficile. I festeggiamenti nazional popolari. Difficile, perché quando ci si abitua alle dosi di droga, capisci, questo è il meccanismo. E questo è uno dei meccanismi purtroppo collegati alla supplenza del banchiere centrale, che è diventato una roba che, come osa pensare che non deve farlo, stia lì, altrimenti lo cambiamo e ne mettiamo un altro che ne farà di più. L'effetto della droga di Draghi è quello di far perdere il senno ai politici, che non sanno poi leggere i fondamenti della realtà. Non so se non sanno leggerli, li sanno leggere ma li piegano a loro vantaggio. Cosa vuoi che tiene freghi a loro oramai? C'è un tema del debito pubblico in Italia, ragazzi, non c'è più, non gliene frega più niente a nessuno. C'è un tema di deficit, quello va a dire nelle sue iniziative, è andato a dire: i soldi per le periferie ve li nega l'Europa. Testuale, è incredibile quello che oramai dicono. E questi è il meglio che abbiamo in Italia, perché gli altri dicono che siano peggio. Però questo si può andare, è andato a Corviale a dire, giocando a pallone, credendo di essere Macron insieme a Martina e a erano in tre, chi era il terzo? Il ministro Martina, non mi ricordo chi fosse. Sarà stato Totti, non so no, chi era. No, ecco, è andato a dire: andrò in Europa a chiudere la campagna, perché l'Europa non ci dà i soldi per le periferie. Allora, quando si arriva a questo, cari amici, bisogna preoccuparsi, perché vuol dire, secondo me, che la soglia dell'utilizzo innegabile della funzione di supplenza è venuta meno, perché è largamente soppiantata dal fatto che si dà per scontato che sia così, zitti e muti. E questo non può essere. E quindi ha ragione Emiliano che dice che, siccome il deficit purtroppo è lì, bisogna colmarlo con una bella patrimoniale. È vero, ragazzi? No, perché fatemi capire a questo punto. Tu mi stai, come al solito, dicendo: non criticare Renzi. No, altri no, sono peggio. Guarda, hai ragione. È vero. Però fammelo ricordare, perché sennò qua il disastro è che ho ragione io e che hai ragione pure tu, che significa che a ci diamo ragione reciprocamente. E comunque ve lo meritate, Gigino o ripetente. Oh, torniamo tra un minuto. Limosta conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con il compare dei conti della belva. Mario. Carlo Alberto, che in questo momento è stato beccato mentre corregge i compiti dei suoi studenti. No, io l'ho beccato implacabilmente. E va bene, d'accordo, però c'è in comunque studio. Non erano i compiti, era il master di stamattina. Master, va bene, detto questo, eccoci qua, tornati in studio. Andiamo a tentare di capire meglio che opinione avere e che valutazione, primissima valutazione fare, mancano ancora molti numeri per farla, su questo singolare annuncio, in poche righe in realtà, di un intervento fiscale che nella storia americana ha praticamente nessuno uguale, per incredibile portata. Quindi l'hanno messo in 200 parole e in sintesi si tratta di questo. Un maxi abbattimento di quella che da noi è l'IRES, cioè l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, perché stiamo parlando di passare dal 35%, che come aliquota legale era elevata in termini OCSE, vi ricordo che noi siamo passati dal 27,5 al 24% nel nostro paese in quest'anno, ma insomma dal 35% al 15%, che non a caso da anni era al centro del dibattito delle grandi imprese americane accusate di avere oltre 2 trilioni di dollari di utili parcheggiati all'estero proprio per sfuggire a questa aliquota, e dicevano: ma se per esempio ci fosse il 15 noi ne entreremo. Ed ecco il 15. C'è poi anche un'aliquota di regolarizzazione, l'aliquota non la sappiamo, insomma, però c'è, è prevista un, chiamiamolo condono, sì, chiamiamolo condono, per chi appunto titolare di quei 2.3, 2.4, 2.5 trilioni di dollari di utili all'estero, stiamo parlando di imprese multinazionali americane, li fa rientrare nel paese. Come è ovvio, da questo abbattimento di aliquota e dal rimpatrio si immagina una esplosione di crescita da investimenti. Questo riguarda le persone giuridiche. Andiamo alle persone fisiche. Tre aliquote di cui però non viene detto la soglia di reddito a cui si applica, quindi si passa da 7 a 3 di aliquote. È chiaro che senza sapere la soglia tanti conti non si possono fare. Comunque le aliquote diventano 10, 25 e 35 per cento. Raddoppio della no tax area da 12.000 a 24.000 dollari. E uno direbbe fin qui: cacchio, ci guadagnano tutti, meraviglia, è eccezionale. Beh, insomma, perché a fianco a questo si dice che verranno abbattute moltissime deduzioni e detrazioni. Anche qui la lista precisa non c'è, ci sono alcuni esempi. Ma Naturalmente questo avrebbe un effetto, sarebbe necessario per contenere gli effetti di perdita di gettito, però vedere per credere. Quello che si dice lì è che invece dovrebbero aumentare le deduzioni in prima casa per chi ha meno, quindi l'incentivo per le fasce più basse si torna a favorire la proprietà immobiliare. Il problema è che di fronte a quell'aliquota proporzionale del 15% sulle imprese, si dice che chi è detentore di quote nelle imprese, eccetera, eccetera, chi è imprese familiari, eccetera, a quel punto può condurre alla tassazione proporzionale, cioè al 15%, invece che progressiva, sia pur molto attenuata nel tre aliquote IRPEF. Questo, come evidente, vista l'elevatissima partecipazione degli americani al mercato dei titoli, dell'equity, eccetera, eccetera, beh, insomma, determina una fuga di milioni di contribuenti verso il 15%. Anche questo è un punto molto forte, per così dire, per capire gli effetti. E io concludo questa mia brevissima sintesi dicendo: infatti, sfogliando i giornali americani, si va sulle stime del deficit prodotto da questa riforma, a cui mancano molti numeri, quindi ripeto, fare previsioni vere attualmente è molto difficile, che vanno dai 2, 3, 2, 4 trilioni di dollari in 10 anni, io ho visto previsioni fino a 7 trilioni, ovviamente dipendevano un po' anche da qual è il giudizio su Trump. Però insomma, deficit aggiuntivo importante, perché all'inizio tutto questo si finanziava con una bella tassa che non c'è più, la border tax. E siccome è venuta meno la border tax, che era collegata all'importazione protezionistica del Trump a campagna elettorale, eccetera, eccetera, il tutto dovrebbe essere riequilibrato, sì, dalla ricrescita dell'economia lafferiana, ma soprattutto dall'incisione del corpo delle deduzioni e detrazioni, che è un po' complicatuccio, a dire la verità, da immaginare che davvero si faccia, perché mica solo in Italia quando tocchi le detrazioni si scatena l'elettorato. Allora, questo è il punto. È fondamentale riconoscere, secondo me, che rimette al centro crescita con meno tasse e non con più spesa, questo è vero. Il rischio è che in congresso non passi, molto forte, è inutile dire di no, e soprattutto che però l'effetto diventi quello: ci risiamo, quelli che propongono i tagli alle tasse in realtà propongono solo loro aumenti del deficit come quelli che aumentano la spesa. Fine della mia introduzione. Vi presento i nostri due ospiti. Abbiamo per il côté impresa, di chi fa impresa lì e qui, e serve un po' a capire, a nasare l'aria con cui questo annuncio viene considerato su quella sponda dell'Atlantico, ma un po' anche sulla, sulla nostra. E abbiamo tornato a chiedere di essere con noi Fernando Napolitano, che è presidente amministratore delegato di Italian Business Investment Initiative a New York. Grazie di essere con noi, Fernando. Ciao, buongiorno. E poi Dario Stevanato, lo sapete, uno dei nostri punti di riferimento, la nostra stella fissa quando si tratta di diritto tributario. Lui insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Buongiorno e grazie, Dario. Buongiorno, grazie a voi. Fernando, allora, dal tuo punto di vista prevalgono più le luci o le ombre? Ma Oscar, è come tu descrivevi, nel senso che questa amministrazione sta giocando molto sugli effetti annuncio e, come tu hai visto, la borsa reagisce, perché diciamo il sentiment è magari non farà quello che ha promesso nella sua totalità, ma andiamo nella direzione giusta. Tu tieni presente che quando lui parla, innanzitutto il gergo che utilizza, che è molto crudo ed è terra a terra, tipo Sud Corea ti difendo ma paghi un miliardo per la difesa missilistica, lui si rivolge alla parte dell'elettorato, quindi che non è quella delle coste, che effettivamente ha sofferto ed è quello che l'ha votato. Quindi tutto questo va letto in una semplificazione estrema per dire: ti sto ridando il sogno americano. Ora, la probabilità che questa cosa passi così come lui l'ha annunciata è molto remota, per il semplice fatto che l'unico esempio storico nell'86 con Ronald Reagan c'è stata una cooperazione democratici-repubblicani, in questo caso, estremamente dettagliata, che, come sai, ha portato alla riduzione delle tasse corporate e evidentemente il gettito poi è aumentato perché ha allargato la base. Qui lui sta facendo una serie di promesse che, al di là del deficit e dei numeri, cominciano a diventare abbastanza criticati dalla sua stessa parte repubblicana. Perché il deficit americano esiste, ma soprattutto il debito è raddoppiato negli ultimi anni, e quindi qui c'è una preoccupazione di una ideologia di fondo. Quindi quando tu dici nasare, la situazione è che ovviamente tutti quelli che fanno business si sentono molto confortati da qualcuno che è stato così spregiudicato, perché se nei vari giornali una delle domande che viene fatto: hai un accountant creativo? E si sa benissimo che il presidente è stato molto creativo nel proprio accounting, e quindi è vero che non ha ancora rilasciato la propria dichiarazione delle tasse. Quindi c'è una situazione di attesa con la borsa short-termista che gli dà credito. Da qui a dire che quello che ha detto, per quello che tu hai esposto nella complessità della realizzazione, io credo che lui, se realizzerà un 30% di quello che ha detto, è già un grande successo. Devo dire che, come si vede, Fernando ci dà un tocco di realismo, per così dire. Io credo che la parte più problematica, al dire la verità, sia proprio quella che riguarda gli interventi su l'imposizione delle persone fisiche. Io di questo resto convinto, mentre la parte che riguarda le aziende è la parte, secondo me, a cui l'amministrazione mette maggiore attese per la crescita. Però su questo sono tutte opinioni per il momento. Finché non mancheranno, poi finché non ci saranno i numeri precisi, è difficile farlo. Io ho l'impressione anche che abbiano lasciato larga vaghezza sui numeri, Mario, per consentire poi una possibilità di avviare almeno, di far finta di avviare almeno una trattativa, sia all'interno del mondo dei repubblicani, sia col Partito Democratico. Tu che dici? Sì, è vero. Premesso che questo è un proclama perché doveva accadere entro i 100 giorni, e quindi Trump aveva bisogno della sua vetrina. Infatti è abbastanza ridicolo, o divertente, scusate, la reazione di tutti i repubblicani, a partire dal segretario al tesoro Mnuchin, del tipo: però un attimo, c'è tempo, magari entro agosto non ce la facciamo, vedremo, diremo. Cioè, io ho l'impressione, adesso stanno riesumando il voodoo della curva di Laffer, esatto, no? Esatto. Cioè, che è una curva, appunto, e quindi se tu la prendi sulla parte destra della coda è chiaro che abbassando le tasse alzi le revenues, però se la prendi dalla parte sinistra della coda, però, scusami, eh. Esatto, però fatemi dire una cosa che forse è... Allora, durante gli 8 anni di presidenza di Bill Clinton le tasse sono aumentate, però l'economia è cresciuta, il gettito è cresciuto. Quindi è vero che c'era il boom della dot-com, che c'era la new economy e quindi c'è stato investimenti drogati sotto molti aspetti, però di questo bisognerebbe tenere conto, cioè non è detto che il taglio fiscale riattivi necessariamente il paese. Poi uscirsene a dire è la curva di Laffer, faremo aumentare dello 0,9%, ma poi citando Reagan che usciva da liquido marginale del 70-90%, esatto, cioè adesso, esatto, vabbè, qui non è che siamo una banda di fiscalisti perfetto. Satanati, però insomma, perfetto. Un conto è scendere dal 90 al 30 e un conto è scendere dal 35 e lì, al 15. Laffer nel primo caso opera, nel secondo caso la vedo più dura. Poi lasciatemi dire l'ultima cosa, giusto per non sottrarre tempo a tutti gli ospiti al dibattito. Viene eliminata anche la alternative minimum tax, che è praticamente il puntello che serve a evitare che i soggetti ad alto e altissimo reddito possano elusivamente pagare niente di tasse. Quindi è vero che raddoppia la deduzione standard, è vero che mette una esenzione fino a $24,000 annui per i singoli contribuenti. Però questa è ancora una volta la trickle down economy, cioè io faccio arricchire l'1% o lo 0,1%, sì, e poi qualche goccia arriva anche giù. E soprattutto il Partito Repubblicano non è un monolite. Il Partito Repubblicano ha, viva Dio, dei conservatori fiscali che probabilmente storceranno il naso a pensare che questa bozza aumenta il debito PIL del 25% in 10 anni. Poi va a finire che i repubblicani, che sono così, come dire, guardiani del deficit e del bilancio a posto, sbracano. E dopo deve arrivare un democratico a risanare i conti. Bravo. E i repubblicani gli ululano dietro. E infatti a me, a cui piace invece l'idea che lo Stato non deve mai cessare di prendere meno ed essere più efficiente, un po' sono ideologico in questo, però devo dire, questo aspetto, io sono un conservatore fiscale, quindi io considero il peggior nemico di chi come me vuole diminuire le aliquote e il prelievo perché crede in uno Stato più efficiente e col perimetro più ristretto, ma io ho come peggior nemico chi promette di farlo e quando poi i suoi effetti diventano disastrosi. Sia se lo promette non lo fa, vedi Berlusconi, sia quelli invece che lo promettono lo fanno, ma devastano il bilancio pubblico e rendono necessario poi correzioni successive. Sono i miei peggiori nemici perché levano ogni credibilità al fatto che il rilancio della crescita si fa con meno tasse, spesa pubblica allocata con intelligenza e più efficienza, invece che con più spesa pubblica e basta. Quindi su questo io sono sono un po' molto molto convinto che non basti mai diminuire. È molto molto convinto però che quando su questo si pattina sul ghiaccio e poi lo si rompe è peggio per tutti ed è peggio per chi ha le mie idee, caro Carlo Alberto. Però posso dire una cosa invece a favore di una logica, sì, cioè dell'universalismo contro invece la pletora delle deduzioni, perché le deduzioni sono state uno strumento politico fortissimo dei demagoghi che servivano fondamentalmente a comprarsi consenso ogni riferimento alla situazione italiana, ragazzi, ma quasi è puramente teorico, esatto, no? Esatto. Adesso che sentivo lo dice Dario, e a me invece questa idea di ripulire, di sboscare questo tema e partire con un concetto, poi possiamo discutere finché voglio sulle aliquote e sulle sono soglie, d'accordo. Però per me l'universalismo fiscale è un pilastro fondamentale però del patto. Vedrai adesso che interviene Dario, che invece proprio su un fondamentale aspetto universalistico, per chi è liberale, questa riforma non va, per una ragione di fondo, ma essenziale, se voi dite spaccate il capello in quattro anche nel campo dei liberisti, però questa roba che adesso Oscar, che io e te ci mettiamo a spaccare il capello, francamente non mi sembra il caso di guarda, metterlo io sto sul tentando tavolo. Di farmi ricrescere ma non vedo grandi prospettive. Anche io ho commesso un errore come l'ispettore, vabbè, sei troppo giovane, non vi ricordate Cesare Polacco? Lo ricordiamo, siamo cultori della archeologia pubblicitaria. Va bene, torniamo tra un minuto. Più forte e fino alla morte l'Italia pagò. conti della belva. Eccoci tornati in diretta a parlare di quel che sappiamo, ma insomma dell'annuncio della riforma fiscale sia per la parte imprese sia per la parte persone fisiche venuto dall'amministrazione Trump. Vi confermo, il professor Carlalberto Canavale Maffè oggi non ha studiato, perché se avesse davvero studiato avrebbe dovuto esplodere dicendo: ma come azzera l'imposta federale di successione, che è uno dei suoi cavalli di battaglia? Esatto, invece, esatto. Tocca a me dirlo. Dopo, tocca a me dirlo. Vabbè. Niente, cara studentessa del master di Carlalberto, in questa parte dell'anno non scopritevi così tanto, perché vi fate degli effetti troppo strani, e poi la signora perché è sposato, è sposato e poi detto, si preoccupa, e ha ragione. Senti, vabbè, al di là delle battute, professor Stevanato, che cos'è che non la convince di questo tipo di intervento, di cui ignoriamo tanti numeri, ma insomma per come viene prospettato? Ma io direi questo, che i punti che va a toccare questa paginetta contiene solo appunto delle linee guida, delle linee di intervento meramente programmatiche, ma senza alcun tipo di dettaglio, con pochissimi dettagli, va a toccare dei punti giusti, cioè delle anomalie del sistema americano. Ne citerei tre. Una è la tassazione societaria. Il livello della tassazione societaria è tra i più alti al mondo. Il resto dei paesi hanno abbassato nel corso degli anni l'aliquota. Pensa quanto è avvenuto in Italia, ad esempio, fino a 10 anni fa stavamo al 35-36%, oggi siamo arrivati al 24%. Gli americani ce l'hanno ancora al 35%. Questo crea un problema di delocalizzazione, di fusioni inverse, reverse acquisition, società americane che si fanno incorporare da più piccole società europee per avere una sede legale in paesi a più bassa fiscalità. Questo è un problema su cui è corretto intervenire. La seconda questione è che connota di nuovo in modo anomalo il sistema americano, è la mancanza di un'imposta sul valore aggiunto. Anche qui c'è stato un tentativo di intervento, per il momento messo nel cassetto, con la Border Adjustment Tax. Il terzo elemento che indicherei è quello di un sistema molto complicato. Ricordo che, ne abbiamo parlato in altre occasioni, l'idea di flat tax, che nasce diciamo nel modo che tutti conoscono all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti, parte non solo da una volontà di abbassare il livello dell'imposizione, ma anche, se non soprattutto, di semplificare un sistema estremamente complicato, e tale ancora è rimasto, verso un sistema più semplice e meno costoso nella sua applicazione concreta. Quindi io direi che dal punto di vista degli obiettivi ci siamo. Invece il giudizio è diverso, o può essere diverso, se pensiamo agli strumenti con cui questi obiettivi stanno per essere raggiunti o vorrebbero essere raggiunti. Perché sul piano della tassazione delle società si rischia di passare da un estremo all'altro, cioè da un'aliquota tra le più alte al mondo a una tra le più basse. Il 15 è poco più dell'aliquota che ha l'Irlanda, che è una tra le più basse in Europa e nei paesi occidentali. La border adjustment è un sistema anomalo di rimediare alla mancanza dell'IVA. E comunque lì pare che non ci sia più, quindi. Non c'è più, proprio probabilmente perché il tentativo di innestare sull'imposta sul reddito societaria degli elementi dell'imposta sul consumo come l'IVA non sta in piedi sul piano internazionale, e non sta in piedi nemmeno perché crea delle discriminazioni tra le stesse imprese americane. Il terzo obiettivo, quello della semplificazione, lì lo vedrei soprattutto sul versante dell'imposta sul reddito personale degli individui, in un certo modo si comprende che c'è quell'obiettivo. Ad esempio, l'alternative minimum tax, che prima è stata citata, è vero che è un sistema che servirebbe a evitare che, per effetto delle molte deduzioni, individui ad altissimo reddito finiscano per pagare poco o nulla, però è una misura molto controversa perché crea moltissime complicazioni, introduce un vero e proprio sistema parallelo di calcolo dell'imposta che poi nel corso degli anni ha finito per applicarsi anche a individui a reddito medio, sopra i $75,000, ogni americano è costretto a fare un doppio calcolo assai complicato. Nello stesso senso vanno poi le proposte di riduzione delle varie deduzioni di cui pure avete detto. Quindi mi sembra che, insomma, nel giudizio di sintesi è: gli obiettivi che individua sono corretti, i modi per raggiungerli molto discutibili. Su questo non so però quanto effettivamente puntino a un'aliquota del 15%, o quanto invece, ad esempio, se parliamo dell'aliquota, quanto realmente sia in quelle tre aliquote di reale volontà di portarle a casa o no, piuttosto l'inizio di una trattativa. Poi se c'è tempo, adesso o dopo, spenderei due parole su che cosa però rischia di succedere per la tassazione dei redditi di imprese in generale. Allora, io su quello io volevo arrivare. Perché? Secondo me chi da liberale punta alla neutralità, cioè a un'aliquota di convergenza, per chi parte da Vercelli molto diversa. Noi nel nostro paese abbiamo, il legislatore si è divertito, cioè in un sistema che è definito ispirante sia a principi di progressività secondo l'articolo 53 della Costituzione, noi abbiamo, l'abbiamo detto molte volte, ma lo ripetiamo, l'imposta progressiva sul reddito riguarda oramai il reddito solo da lavoro, perché tutte le altre forme di reddito il legislatore si è inventato a seconda di cosa doveva portare a casa i 5 minuti prima di chiudere il bilancio, delle cedolari ad aliquote variabili per tipo di cespite e magari per tipo di cespite differenziandone a seconda dell'utilizzo contrattuale che ne fa, se un locatore, adesso parlo così di moda le tasse sui digitali, quindi capito. Noi viviamo in un paese in cui il prelievo progressivo sul reddito è solo sul lavoro, perché per il resto viviamo nella moltiplicazione di aliquote. Un liberale questa roba la fa impazzire, cioè la fa impazzire l'idea che è la politica, anzi il pubblico amministratore, anzi il capo di Agentrate, cioè quello che si inventa le tasse fiscali nel nostro paese, che decide lui a seconda del cespite che cosa si paga, se è proporzionale o progressivo e a seconda dell'uso che ne faccio quanto è proporzionale o meno. Questo è il punto di fondo. Il liberale dice no, su reddito da lavoro, da capitali, da immobili eccetera, ci deve essere una aliquota unica, neutra, non deve essere lo Stato a distinguere. La cosa di fondo, Dario, che hai scritto ieri, è che però qui non si capisce se si dice 15% basso, molto basso, reddito d'impresa, dall'altro si dice 10, 25, 35, però poi si dice tutto quello che è consente all'individuo di la parte di reddito d'impresa, io gliela tasso al 15 e non alla progressività. Mi pare che una riforma di queste proporzioni, che continui a non andare verso la neutralità del prelievo, beh, tradisce un'aspettativa molto forte, o no? Assolutamente sì, così almeno è stata intesa, mi pare, da tutti i commentatori. Ripeto, stiamo commentando una paginetta, sì, quindi magari i dettagli non li conosciamo, però da quel che si comprende, qui il problema che si pone è nel momento in cui tu hai un'aliquota su redditi delle società di capitali, ovviamente non può che essere disallineata rispetto a un'articolazione di aliquote per scaglioni sulle persone. Solo nel caso di un'aliquota unica su tutto non ho più questo problema che sparisce ad esempio nei modelli di flat tax, ma nel momento in cui tu mantieni delle aliquote, in questo caso 3, 10, 25, 35 e un'aliquota sulle società del 15, ti si pone un trade-off, cioè o allinei i redditi di impresa prodotti in forma individuale o di società di persone o di altre strutture in cui la produzione del reddito non passa attraverso un'entità giuridica che applica l'articolo del 15, ma va direttamente in capo alla persona, ti si pone il problema di se allineare questa aliquota alla società di capitali oppure al restante dei redditi personali. Logica vorrebbe che si allineasse alla restante dei redditi personali. Ad esempio anche l'Italia che ha cercato di coniugare queste esigenze, no? Da ultimo, introducendo la facoltà per imprenditori individuali e società di persone di optare per l'aliquota del 24% fino a che però gli utili non vengono prelevati dal titolare. Esatto. Dopodiché scattano le aliquote progressive. Così si mantiene una parità di trattamento rispetto ai redditi di lavoro. L'hai spiegato benissimo. Secondo me questa roba, vista l'altissima partecipazione al mercato, insomma, di controllo delle imprese, sia pure non controllo, ma le quote non che esercitano il controllo, gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non sono l'Italia, però determina un grande buco, una grande fuga, se la fanno così, verso il 15%. Questo è quello che vedo io. Quindi è un problema molto delicato. Nonché è una grande occasione persa per chi spera nella flat tax, e di questo argomento torneremo. Grazie a Fernando Napolitano, grazie a... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati, cari compari. Mario. Caro Alberto. Caro Alberto, oggi siamo distratti, caro Alberto, siamo distratti. Di cosa parliamo adesso, caro Alberto? No, perché in realtà io, vabbè, ho inondato pagine sui quotidiani, così come la pensi io è fin troppo chiaro, per così dire. Io temo che, visti i precedenti 2000 di decenni, ma in particolare quello che ci ha insegnato la vicenda 2006-2008, quella finita con il default pubblico, io temo molto che cosa avviene adesso, sempre ammesso che, ma diamolo per scontato, adesso in assemblea i soci attuali chiederanno il ricorso alla legge Marzano modificato, quindi la nomina di un commissario straordinario in continuità, perché le modifiche alla vecchia Marzano consentono queste procedure in continuità aziendale, quindi in continuità dei voli e delle attività di Alitalia. E il problema è che ciò che avvenne nel 2007-2008 è chiaro. In 2007-2008 Prato, che era subentrato ai precedenti vertici della compagnia, allorché però nel 2006 aveva capito che la compagnia aveva perso 600 milioni, quindi era in condizione di non reggersi più, Prodi lanciò il primo round della privatizzazione, 11 cordate, alla fine ne rimaneva solo una, quella intesa a Rouen, per essere chiari. Fallì il primo round della privatizzazione, Lufthansa fece un giro al tavolo dopodiché se ne andò, prestito ponte a Prato, quel prestito ponte è andato lì come fatto, naturalmente, ma perché ha dato l'illusione a tutti gli attori, che il tempo potesse diluire. Quando lo Stato mette un prestito ponte poi lo protrarrà una volta che è finito, no? Punto numero uno, perché se si è presa la decisione di far rimanere l'attività in corso, mica la si può poi sospendere. Il risultato fu infatti che si andò un secondo round di privatizzazione, non più a gara ma a trattativa diretta, che si concluse poi con i capitani coraggiosi, ma nel frattempo con il fallimento e quindi con Fantozzi che diventava liquidatore. Nel frattempo tutto questo a quel punto poi fece avvenire una cessione a prezzi di realizzo, se mi consentite, ma siccome l'interlocutore era italiano e non hanno più i feroci di Air France, che erano stati allontanati dal tavolo nella seconda fase della trattativa, dicendo che i francesi volevano, volevano ben 2.000 dipendenti in meno, poi diventarono 9.000 in meno quello della CAI. Ecco, a quel punto, oltre alla cessione da parte del liquidatore a prezzi di realizzo, su cui nessuno però ha fiatato perché la difesa dell'italianità, abbiamo avuto 7 anni poi di CIG straordinaria, a 7 anni all'80%, a quasi 9.000 esuberi di allora, e il tutto quindi ha bruciato il prestito ponte, aumentato gli oneri del fallimento pubblico, aumentato gli oneri pubblici del passaggio a CAI e dei cuscinetti a sostegno della nuova compagnia del piano Fenice. Questo è quello che avremmo dovuto imparare, secondo me, nel 2007-2008. Quindi io per questo dico, bah, questa cosa del commissario si sa come comincia ma non si sa poi come finisce. Sappiamo che, e qui concludo, Renzi non ci si trova nell'impostazione fino a questo momento. Calenda Del Rio la trova un po' scolastica, la trova troppo direttamente volta a un commissario che non può fare il piano, invece dovrebbe pensare a fare un piano, a quel punto lo deve fare con i soldi pubblici, e a Renzi questo non piace. Bisogna dare l'idea al paese che si può fare come Meridiana, Meridiana, quindi il Qatar, come Meridiana. Questo è il messaggio chiaro. Però detto tutto questo, io non voglio ironizzare, dico solo, la questione è seria. Dovremmo aver imparato, ma non so, da 30 anni di errori pubblici, un falò di risorse per l'incapacità di avere gestioni traguardate, con come cambia il trasporto aereo nel nostro paese. Quando hanno privatizzato Iberia alla fine degli anni 90, gli era chiaro, perdeva un fracco di soldi, era pubblica, bisognava A, privatizzarla, B, maritarla, e infatti sta in un grande gruppo integrato, si chiama British Airways, in cui sia la spagnola che British, oltre alla loro attività full service, hanno una low cost ciascuna, e così ti metti in condizione di rispondere al mercato, coprendo tutte le fasce dell'offerta, quelle low cost, quelle intermediate e quelle full service, e per fare lungo raggio nel full service dove fai soldi, per generare miliardi in un ciclo pluriennale, che sono quelli necessari per stare nel lungo raggio, perché gli servono soldoni veri. Ogni volta bisogna ripartire dall'ABC in Italia a rispiegare tutte queste cose ed essere liquidati dal politico di turno che dice: ma cosa c'entra? Non capisci nulla, è colpa dell'Europa. Ma non lo so, io può essere che sia troppo vecchio, oramai non sia più utile. Quindi gli ospiti di oggi. Cominciamo da Massimo Mucchetti. Massimo Mucchetti, ex vice direttore del Corriere della Sera, presidente oggi della Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica. L'ho chiamato perché, conoscendo le sue idee, so che ha una visione strutturata di quello che delle difficoltà e nella politica industriale è il compito dello Stato. Non è la mia idea, ma io ho sempre imparato da lui, quindi grazie di essere con noi, Massimo. Grazie Oscar, eccomi qua. E poi il professor Riccardo Gallo, docente di economia applicata alla Sapienza di Roma, che sui numeri di Alitalia ha prodotto degli interessantissimi pezzi negli anni, ecco, nei non pochi anni di cui si è occupato il suo bilancio. Grazie di essere con noi, professor Gallo. Buongiorno. Massimo, secondo te cosa bisogna fare? Ma intanto bisogna imparare dalla storia. Tu hai fatto un utile esercizio di ricostruzione che completerei con due ulteriori punti di precisazione a beneficio di chi ci ascolta. L'ultima persona che ha detto una cosa sensata su Alitalia si chiama Romano Prodi. Come hai ricordato, nell'autunno 2005 Romano Prodi disse: mai più un euro deve andare su Alitalia. Ah, pardon, nell'autunno 2007, sì. 2007 disse: mai più un euro su Alitalia. E fece non tanto il primo round della privatizzazione, lo fu nei fatti, ma dopo un approccio con Lufthansa che non andò da nessuna parte, fece un accordo sottoscritto in tutti i dettagli con Air France, verissimo. Che aveva già integrato KLM, la compagnia di bandiera olandese, e questo accordo prevedeva, come hai ricordato, 2.000 persone in meno e una corresponsione di circa 330 milioni di euro agli azionisti italiani, tra cui c'era anche Fintecna. Come no? Allora, ed erano anche disponibili i francesi a prendersi al nominale tutte le obbligazioni in circolo di Alitalia, cioè una roba che avercela, ecco. Quota per piena con un accordo sindacale meno 2000, riassunto naturalmente, una certa ripartizione dei voli buona tra le basi di Malpensa e Fiumicino, e era un accordo ottimo, posto che noi stavamo mettendo in vendita una ciofeca, perché bisogna anche essere chiari in questo modo, no? Quell'accordo aveva due condizioni sospensive naturali, perché si era alla vigilia delle elezioni politiche. Ed Air France disse: a me va bene, ma il nuovo governo me lo deve controfirmare, no? Quindi se il nuovo governo sarà un altro governo Prodi, nulla questio; se sarà un governo Berlusconi, come in effetti fu, la controfirma sarebbe stata importantissima. Nello stesso tempo, noi non veniamo in Italia a dispetto dei santi, i sindacati devono accogliere l'accordo. Quell'accordo venne bloccato ancora in campagna elettorale e poi fatto decadere dopo il successo del centrodestra alle elezioni per l'opposizione della CISL di Pezzotta, come si chiama, non mi ricordo bene il nome, Pezzotta, a cui si accodò poi il CGIL per non essere da meno, ma il motore dell'opposizione sindacale fu la CISL. Il secondo no decisivo e in collegamento con questo fu quello di Berlusconi, che a quel punto si appoggiò a Intesa Passera, si organizzò la fusione con Toto Airone e i capitani coraggiosi. Questa è la storia, è la storia di una follia. Sì, sì, ma io poi ti dico che secondo me la grande occasione persa è addirittura quella con Ciampella 1999-2000 con KLM, ma, quattro allora, anni prima. Andiamo alle figurati. Però la storia recente è quella che hai detto tu. Perfetto. Adesso secondo te? Adesso secondo me noi siamo davanti a due scelte, a un bivio, su cui poi bisogna ragionare seriamente. Allora, il primo bivio è: se non quando anche noi commissariassimo all'Italia, non è che per andare avanti all'Italia non ha bisogno di soldi, ha bisogno di soldi per dirti soltanto una cosa: all'Italia ha venduto voli non ancora effettuati per 340 milioni, deve avere i soldi come minimo, certo, per fare i voli che ha venduto e poi per andare avanti, altrimenti poi perdi gli slot, ha bisogno di denari. Questi sono i denari per la gestione corrente, non sono i denari per fare il lungo raggio. No. Cioè, servono 180-200 milioni di spese vive tra personale, diritti, manutenzione, carburante. Anche di più, anche di più, no? Allora, questo finanziamento del corrente fatalmente non può che essere fatto da avere una qualche forma di garanzia pubblica, perché altrimenti le banche già finanzierebbero adesso, no? Mi sembra ovvio. Perché questa garanzia pubblica possa avere un senso, io non avrei forse neanche parlato finora, ne avrei parlato soltanto riservatamente in sede europea, una volta che ho scelto che cosa faccio. Perché se io nomino un commissario liquidatore, un commissario straordinario, che ha il mandato di cedere al più presto la compagnia, in tutto o in o spezzandola, in tutto o spezzandola, è un conto. Se io nomino un commissario che fa, tra virgolette, l'imprenditore, vuol dire che diventa una roba che non finisce più. Cioè, si torna a un'altra forma di capitani coraggiosi. Allora, io sento due nomi, perché mi piace parlare chiaro, un nome è Laghi e un altro nome è Moretti. Laghi non è un imprenditore, un manager operativo del settore, di nessun settore, è un grandissimo e bravissimo commercialista. È un professore di economia aziendale, quindi capisce di aziende. Se metti Laghi, vuol dire che organizzi una gestione che tiene buono quello che c'è e lo traghetta da qualche parte. Naturalmente oggi i possibili acquirenti stanno tutti schisci, perché nessuno è così scemo, certo, da farsi vedere in questa fase. No? Se tu nomini Moretti, nomini un manager che ha delle idee sue sull'Italia che sono state in passato, a mio parere, anche interessanti. Voi ricorderete che all'epoca dei capitani coraggiosi, Moretti, grande capo delle ferrovie, il risanatore delle ferrovie italiane, disse: io vedo una soluzione originale nel mondo, non l'ha mai fatta nessuno. No, esatto. Ferrovie all'Italia, perché faremo questo, questo e quest'altro. Infatti, però tutti gli dissero: sei scemo. Sei matto. No? Sei... Oh, sei matto, no? Aspetta, io adesso ti devo interrompere perché diamo la pubblicità, però con questi due nomi hai reso chiaro. Io voglio infatti l'ipotesi Laghi. Io penso che il 2007-2008 ci abbia insegnato, da Prato in poi, che non spetta al commissario straordinario reinventarsi un progetto, un piano industriale per l'Italia. Veramente, sbaglio, perché credo che l'esperienza pubblica su questo sia... tu mi potrai dire no, ma abbiamo imparato, la facciamo nuova, ferrovie e Italia. Vediamo, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in studio con Paio di Conti della Belva, Mario e Carlo Alberto. E con noi Massimo Mucchetti e il professor Riccardo Gallo. Massimo, ti faccio finire il ragionamento, perché dicevi Moretti, secondo te bisogna davvero pensare che sia un commissario a rimettere in pista, dopo tutto quello che abbiamo visto, inventarci un piano per l'Italia con i soldi pubblici? Sì. Se cade la linea, chiamatemi fra un momento, perché sto entrando in una galleria. Allora, io credo che l'Alitalia, diversamente dall'Ilva, sia un'azienda che non può stare in piedi da sola in questo momento. Quindi è un'azienda che non è stato... Ha vinto la galleria. Quando siamo arrivati sul dunque, vedi che l'integrazione la fra la luce, professor Gallo, lei cosa dice? Perché lei ci ha regalato delle stupende analisi sui numeri di Alitalia, nei quali si diceva l'incoerenza totale rispetto a ciò che dichiarato nel piano, da ciò che si produceva nella realtà dei numeri, era evidente da anni, fino al punto tale che si era divertito, si fa per dire, purtroppo, cari dipendenti dell'Italia, noi non ridiamo sulle vostre spalle, si era divertito a fare i conti di quante volte superiori a 100 doveva essere il load factor per prendere sul serio gli obiettivi che erano dichiarati, il che significa che ovviamente erano non solo irrealizzati, ma irrealizzabili per tipo di flotta e per tipo di offerta. Allora, alla luce di tutto questo, da ex dirigente pubblico, oltre che professore di economia, eccetera, eccetera, avendo visto negli anni mutare la parte buona iniziale tanti decenni fa dell'Italia pubblica, poi la parte dell'Italia pubblica che non capisce che il mercato cambia, poi quella che resta sola e non capisce che bisogna privatizzarsi e maritarsi, quella che sbatte il muso dicendo no a tutti gli interventi di integrazione con compagnie straniere, KLMN prima, Air France dopo, eccetera, eccetera, fino ai capitani coraggiosi e ai privati che sbagliano clamorosissimamente anche loro in questi anni, perdono altri 3 miliardi dal 2009 a oggi, malgrado i generosissimi sussidi pubblici a spese del contribuente. Lei ora che farebbe se dovesse scrivere il decreto del commissario straordinario? Se fosse al posto di Calenda, il professore Carlo Gallo, che farebbe? Ecco, io parlo anche sulla base della mia esperienza personale, perché ho fatto il commissario straordinario due volte nella vita, con esiti interessanti ai fini di imparare la lezione, voglio dire. Allora, esistono due procedure di amministrazione straordinaria. Quando noi sentiamo gli interventi di vari esponenti che dicono meglio vendere a pezzi o meglio preservare l'integrità dell'azienda, dobbiamo capire che alludono a questi due diversi modelli di procedura. Sì. Allora, ce n'è uno che la ex legge Prodi, rivista oggi legge 270, che prevede che dopo il consiglio di amministrazione del 2 maggio un tribunale chieda parere al ministero, il quale risponde designando da 1 a 3 commissari giudiziali nell'eventualità che poi il tribunale decida l'insolvenza della compagnia. Quando il tribunale dichiara l'insolvenza della compagnia, a quel punto entrano in funzione i 3 commissari giudiziali che hanno 30 giorni di tempo per fare una relazione ai sensi di un articolo di questa legge 270. Alla fine dei 30 giorni il tribunale e il ministero approvano e allora i commissari giudiziali diventano commissari straordinari e cominciano a lavorare. Quindi se sommiamo queste cose siamo su un ordine di 2 mesi circa, quindi da 2 maggio andiamo a finire a 2 luglio, inizio luglio, metà luglio, qualcosa del genere. Il che significa che poi hanno 6 mesi di tempo e quindi andiamo fino alla fine dell'anno. Questa procedura è molto appropriata e dice che il pallino ce l'hanno in mano non soltanto il governo ma anche qualche tribunale, quindi il governo non è autonomo e i commissari giudiziali, che poi diventano commissari straordinari, hanno un compito diciamo un po' strabico, con un occhio possono liquidare, asciugare, disinvestire, creare, generare risorse finanziarie dall'interno e finanziare l'attività ordinaria, con un altro occhio guardano sul mercato cosa è vendibile della compagnia, della società in amministrazione straordinaria e chi se lo può comprare, quindi vendita a pezzi, ma non nel senso brutto del termine, nel senso che il mercato prende quello che ha un valore e quindi, che ne so, il marchio, la quota di mercato, qualche migliaio di operai, qualche aereo e così via, quindi molto realistico. La seconda procedura invece è quella che fu inventata per la Parmalat. La Parmalat lo vedemmo subito, lo scrivemmo ciascuno di noi subito, e cioè la Parmalat era un'azienda sana, qualcuno aveva rubato, quindi il problema del default era un problema dovuto a un furto. Posso andare avanti? No, certo. Ecco. E allora però era risanabile perché l'azienda stava in piedi. E allora si inventò una legge, cosiddetta legge Marzano, che dava ai commissari un ulteriore compito importantissimo, quello di cercare, farsi promotori sul mercato di cordate di investitori che, intuendo la bontà, che l'azienda c'era, che la cassa sarebbe arrivata oltre alla gestione ordinaria a tutto ciò che Bondi aveva ottenuto dalle banche, che erano miliardi, quindi non poco. Esatto, e queste cordate avrebbero potuto mettere dentro denaro sufficiente a soddisfare in una certa misura accettabile i creditori e quindi far uscire la società dall'amministrazione straordinaria e farla tornare in polis. Ma tu per l'Italia, ma professore, per l'Italia di oggi seguiresti strada A o strada B? Oh, bravo! E questo è il punto, perché nessuno ne parla. È vero che nessuno ne parla. Ma in questi termini tecnici no, però. No, ma nel senso strategico. Cioè, no, nel senso strategico, secondo me, c'è chi ne parla senza dirlo esplicitamente. Cioè, ci sono pezzi interi di politica del sindacato che vogliono la seconda cosa. Renzi vuole la seconda cosa, è evidente. Allora, secondo me Calenda Calenda dice: se io faccio un decreto scegliendo la seconda strada e dicendo che il commissario ha mesi e anni per fare un piano e trovare investitori, l'Unione Europea mi dice basta e io non sono intenzionato a farlo. Questo è, traduco liberamente. Dunque, diciamo una cosa, se si fa la Marzano il governo ci fa più bella figura. Sì, ma non c'è dubbio, la continuità la troviamo. E poi ha il pallino in mano. Figurati, Renzi ieri ha detto questa compagnia vola facendo lo steward sul volo, tutte queste cose senza, che adesso, storytelling. Senza il ping pong tra ministero e tribunale. Sì. Quindi il pallino ce l'ha autonomo. Infatti sarà Marzano, siamo chiari, sarà Marzano. Ecco. Allora, in questa seconda ipotesi, cioè della legge Marzano, i problemi sono due. Primo, una risanabilità veloce, perché quando qualcuno ci mette soldi e paga i creditori, poi l'azienda si deve reggere, perché se l'azienda economica e il secondo punto è chi ci mette i soldi. Ah, ecco. Allora, però ragazzi, stiamo parlando di un'impresa che ha perso 1,5 miliardi in 3 anni. Cioè, stiamo parlando di una roba che attualmente sul mercato non ci può stare con quella flotta, con quel modello che ha. Allora, posso arrivare a una conclusione? Poi devo dare la parola a Massimo. No, prego. No, arrivi alla conclusione. La conclusione è che a me sembra che la Marzano sarebbe una forzatura. E che a metterci soldi in questo momento, perché poi va tutto confezionato prima, quindi a metterci soldi adesso non è né Lufthansa né Air France, ma le banche italiane. No, le banche italiane sono state chiare e hanno sacrosantamente ragione, non è mestiere loro, hanno perso un mucchio di soldi. No, l'illusione è che adesso entriamo in una specie di guerra nel mondo delle penisole arabiche e da Etihad passiamo alla Qatar Airlines. Questa è l'illusione di Renzi, questa è la convinzione. Massimo, torniamo a te. Massimo, ok. No, chiedo una cortesia perché devo un appuntamento, faccio questo intervento e poi... Okay. A malincuore salutare. Figure. Allora, io credo che Alitalia, come dicevo prima, non sia più in grado di stare da sola. Non lo era già prima, perché quando tu chiami un partner industriale come Etihad, che è quella che ha messo i soldi, e questo alza bandiera bianca perché si è rivelato incapace di gestire, quando tu chiami capitani coraggiosi, anche quelli hanno messo i soldi e li hanno persi. Questo vuol dire che questa è un'azienda, quante prove d'appello ha diritto all'Italia rispetto alla Ferriera quindi di Odolo. Allora, io credo che con le prove d'appello non si va più avanti, perché se devi cambiare la flotta devi mettere dentro 2 o 3 miliardi. No? E chi cazzo se ti pardon l'espressione, ma chi te li mette 2 o 3 miliardi dentro nella... È una roba che non esiste. Per questo io sono un liquidazionista. Quindi io sono un liquidazionista dell'Alitalia in modo intelligente, quindi che ci siano dei commissari che sono capaci di fare questo lavoro. Il professor Gallo giustamente ha ricordato Parmalat, ma io voglio dire che su Parmalat non è stato fatto nessun aumento di capitale, hanno semplicemente smesso di rubare. Questo l'abbiamo ricordato. Questo l'abbiamo ricordato. I vecchi debiti, c'è dubbio. Li hanno poi ampiamente ripagati. Esatto. e poi è stata scalata con felicità in borsa. Esatto. L'Ilva è un'azienda che certo ha avuto dei grandi problemi, non stiamo qui a rifare la storia, ma è un'azienda che è perfettamente in grado di stare sul mercato. Abbiamo visto che c'è la coda, no, di due cordate importantissime che se la vogliono Alitalia, no, e Alitalia, che sono pronte a pagare. No. Quindi, allora, anche Massimo Mucchetti, ecco, anche Massimo Mucchetti è un liquidazionista, probabilmente non con la mia stessa idea, però per essere chiari, prendiamo atto del fatto che da sola è così, è stato un accanimento terapeutico, follia, miliardi buttati, mi dispiace, io penso questo perché i numeri dicono questo, non perché sia io il contrario, era privata adesso, i privati hanno fatto male i loro conti, e le banche hanno fatto male i loro conti, bisognava fare una battaglia allora per dire il TIAD non deve avere il limite del 49%, però il governo su questo liberalizzatore non se l'è sentito di fare a Bruxelles. Beh, però questo è il tema vero, non si liquida un'Alitalia senza averla messa in vendita tutta, e quindi bisogna rinunciare anche unilateralmente, d'accordo con la Commissione, al vincolo del 49%, come previsto dal regolamento europeo 1008 del 2008, articolo 4, lo ripeto a tutti, se facciamo così, allora forse qualcuno si fa vivo per comprare l'Italia e poi se la faccia integrare, se la sistemi come vuole, ma non possiamo fare i protezionisti che fanno finta di essere liberali, quello è un vincolo assurdo, ecco, che sta uccidendo ogni possibile acquirente della compagnia, altro che soluzione meridiana. Era sembrato che il governo italiano la considerasse una priorità, però dai, tempo le fa. Banche e gli azionisti privati questa cosa l'hanno anche chiesta al governo, qualcuno ha fatto orecchie di mercante, quindi fammela rimettere sul tavolo, perché la Commissione Europea è favorevole a tutto questo, l'ha scritto chiaramente. Allora, se qualcuno invece è contrario, preferisce uccidere una azienda con tutti i suoi difetti piuttosto che rinunciare a un vincolo protezionista, si prende la responsabilità. Io sarò lì a denunciarlo come diciamo uno che ha danneggiato il paese. Mi dispiace. Allora, temo che dovremo continuare a occuparci dell'Italia. Intanto, interessante il ragionamento che ci ha fatto il professor Gallo e la conclusione a cui è arrivato Massimo Mucchetti. Ecco, io non ci avrei scommesso, ma insomma, la conclusione sua non è diversa poi di fondo dalla mia. Il problema è come farlo la liquidazione, però così è. È amaro dirlo, i politici vi diranno altro, chiedetegli che cosa hanno in mente davvero e perché allora tutto quello che è successo in questi anni è accaduto. Torniamo tra... Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, eccoci qua, noi teniamo sempre questa sigla felliniana perché ci dobbiamo ogni tanto interrogare su ciò che avviene e chiederci quanto sia paradossale l'autorappresentazione che l'Italia fa di sé e il fatto che, come avete sentito anche prima, la vicenda dell'Italia è per decenni, da decenni rappresenta un banco di prova del fatto che avvengono delle cose, dovremmo capirle, dovremmo imparare delle lezioni, riguarda il pubblico, riguarda il sindacato, riguarda i privati, no? Che sono poi subentrati al pubblico, e invece no, si fa come se la realtà non esistesse, si fa come se il mercato trasportiero non fosse cambiato nei suoi fondamentali, nella sua tipologia di offerta, anzi si fa scrivere sui giornali che poi la colpa è delle low cost, cioè quelle grazie alle quali il mercato italiano, malgrado il disastro dell'Italia, in realtà ha moltiplicato i suoi passeggeri, perché noi siamo passati di 155 a 133 milioni di passeggeri in questo paese, e questo veniva mentre l'Italia perdeva le quote di mercato e tutti gli altri soddisfavano, perdeva anche il valore assoluto, perdeva anche volumi, valore assoluto, cioè la quota di mercato la perdi se gli altri crescono e tu no, ma se tu decresci, esatto, è la situazione è veramente grave, esatto. Allora, questo per dirne, e perché faccio questa micro introduzioncina? Perché siccome c'è il primo maggio è la festa del lavoro che arriva, e quindi la rappresentanza del lavoro, come cambia il lavoro, il sindacato, cosa vuol dire questi referendum sindacali? Perché per esempio Maria Furlan della CISL ha messo un'intervista, ha detto noi su quel referendum dobbiamo proprio riflettere perché non siamo stati capaci, siamo stati sconfessati. La Camusso, per esempio, la segretaria della CGIL, ha un altro atteggiamento, cambia idea invece, dice no, hanno ragione, ma avevi firmato, cioè avevano ragione. Su Almaviva ha fatto la stessa cosa la segretaria della CGIL, sconfessata dalla RSU, dice avevano ragione loro. Allora a quel punto uno, se il ragionamento è come quello della segretaria della CGIL, dice e allora scusate, io cosa tratto a fare con voi? No, capite, ma è questione di banale buonsenso, non è questione di negare l'importanza del sindacato. Per questo ci siamo detti, prima del 1° maggio, sentiamo un po' come lo festeggia un tipo che seguiamo con interesse da un certo periodo di tempo, la FIM CISL, perché nel campo in questi anni ci è un po' piaciuto come si è comportata. Il suo segretario è Marco Bentivogli, e che ringraziamo per essersi reso disponibile per qualche minuto con noi. Allora, Marco Bentivogli, come lo passate voi il 1° maggio? Grazie a voi intanto. Lo passiamo a Muccia, nel cratere del terremoto, in una realtà difficilissima, e con una modalità del tutto nuova, preciso subito, non alternativa ai festeggiamenti tradizionali del 1° maggio, ma un modo nuovo. Sia l'anno scorso lo abbiamo fatto a Casal di Principe, a Versa, quest'anno a Muccia, e abbiamo deciso che il modo migliore per festeggiare il lavoro è premiare le imprese sostenibili, e cioè le imprese che pensano che sia un valore ricercare ovviamente guadagni per gli azionisti e produrre valore e ricchezza, ma con una grande attenzione alla sostenibilità complessiva, industriale, finanziaria, ma anche sociale e ambientale. E può essere una cosa un po' atipica per un sindacato. Noi, insieme a Next, all'economista Leonardo Becchetti, abbiamo invece deciso che sia molto più importante allontanarci dalla retorica del piagnisteo italiana e denuncia esclusiva che spesso è appartenuta al sindacato di tutto ciò che non va, e di invece indicare quella che può essere la speranza, cioè che c'è un modo di fare impresa che funziona per realizzare profitti, ma che realizza anche dei valori anche molto più importanti. Se ci pensate, Harvard Business Review inizia a parlare in questo modo, BlackRock considera i propri investimenti sempre più in base anche alla sostenibilità, per cui gli aspetti della sostenibilità iniziano a essere un contenuto che dà più rotondità anche alla dimensione del fare impresa, e per noi questo credo che sia assolutamente significativo. Io conoscendovi e frequentandovi da un po' di tempo, non mi meraviglio se i sindacalisti dicono hanno nei loro strumenti anche l'Harvard Business Review, non sto dicendo solo, ma anche, e propongono questa dimensione che è compartecipativa e non antagonista. Però c'è un pezzo del mondo circostante, che non è solo quello sindacale, il mondo degli intellettuali, dei media, che ha sempre nostalgia per la conflittualità, no? Cioè, quelli che vedono Mélenchon le dicono: ecco, quella è la vera bandiera che abbiamo smarrito, che dobbiamo rimpugnare, da una parte. Dall'altra, questa storia dei referendum, adesso non per parlare di Alitalia, ma in generale, perché voi avete dovuto, nel vostro settore, Bentivogli, quando c'era la vicenda Fiat e in generale la deregolabilità dei contratti, impegnarsi per costruire a ogni singola impresa, se ha la taglia giusta, le condizioni per impianti, margini, turni, welfare aziendale e così via. Quindi è un'idea diversa da quella antagonista. Però voi siete passati per intese difendendoli, esponendovi, pagando un prezzo duro e vincendo. Cosa succede invece quando i referendum diventano la controprova della, come devo dire, mancanza di rappresentanza, di un problema? Sottolineano che la rappresentanza di chi sta al tavolo, come disse alla Camusso, chi diceva: ma com'è? Dici che adesso aveva ragione la RSU che ti smentisce, ma allora perché hai firmato? Io in quel caso non la prendo come una provocazione dell'imprenditore, mi metto nei panni dell'imprenditore e dico: beh, ma allora che strada devo seguire? Che risposta si dà il vostro sindacato, che negli anni ha scelto un'altra strada, Bentivogli? Ma sulla questione del referendum e della democrazia diretta sono stati momenti di scontro anche duro. Noi non solo ci abbiamo messo la faccia, ma lo voglio sempre ricordare, anche perché è stata una storia occultata, per aver firmato contratti nazionali e gli accordi che oggi hanno consentito a FCA di essere un'azienda che guida il rilancio della nostra economia, ancora sicuramente tiepido, ma se c'è un pezzo della nostra industria che va bene è quella dell'automotive. Noi pensiamo che i referendum ovviamente siano uno strumento molto delicato. La democrazia diretta, quest'idea, io ho definito la democrazia diretta un po' lo Star Wars bar, dove si incontrano appunto quei radical chic di sinistra, assolutamente innocui, ma assolutamente nei processi del lavoro, ma assolutamente dannosi sul piano culturale, e i populisti di ogni risma. Nei referendum nella gran parte delle volte non si vota per il contenuto dell'accordo che si fa, per cui questa idea del cittadino, del lavoratore totale che vota su tutto, dalla validità delle scoperte scientifiche fino a accordi sindacali molto complessi, è assolutamente ridicola. La posizione di Susanna Camusso, mi dispiace, ma è ancora più grave, perché non si può firmare un accordo dentro che contiene gli aspetti di un piano industriale e poi dire che presentassero un altro piano industriale, perché significa delegittimare il proprio potere contrattuale, esatto, di rappresentanza. Se noi delegittimiamo ciò che facciamo con questa disinvoltura che ha oggi la CGIL, facciamo un grande danno. E giustamente Anna Maria Furlan ha spiegato che bisogna stare attenti e rivedere questi strumenti, perché rischiano di tirare la volata al populismo che boccia tutto. Io ricordo nella mia esperienza un accordo su una mensalizzazione in un'azienda del bolognese, quando iniziavo a fare questo lavoro di organizzatore sindacale, era un accordo tutto a prendere, feci rivotare 4 volte lo stesso accordo, che fu bocciato, ma a distanza di pochi minuti, una votazione dall'altra, e alla fine passò quasi all'unanimità. Questo perché spesso il voto di pancia inconsapevole poi porta appunto le persone a non essere consapevoli di ciò che accade. Io mi ritrovo, perché a questo punto, allora, se devi diventare così, facciamo solo il referendum per ogni cosa e buonanotte, eleviamo l'interlocuzione, perché cioè, però c'è un tema di azzardo morale che non so se è stato ricordato, ma è importantissimo. Tu, se dai anche solo l'idea, è successo con le banche, no, che lo Stato però poi interviene, tu non puoi fare un referendum, perché c'è una situazione di conflitto strutturale tra la decisione razionale di chi partecipa, motivo in più per andarci piano a quel punto. Assolutamente, assolutamente. Infatti, motivo in più per ribadire la centralità della rappresentanza, della leadership. Se no, cosa servono i rappresentanti? Sono dei meri mediatori, esatto, estensori di testi, o sono leader che si prendono la solidità? Bentivogli, vorrei sapere cosa ne pensi su questo. No, assolutamente. Se si pensa di esercitare un ruolo di rappresentanza confondendolo con quello di portavoce, si mente alle persone, oltre che, e tra l'altro, quel pezzo di sinistra un po' buffa secondo me, ma appunto dannosa, che ad ogni crisi, io penso alla siderurgia, in Ilva bisognava nazionalizzare, in Alcoa bisogna nazionalizzare, in Lucchini bisogna nazionalizzare, vi assicuro non è semplice ai lavoratori che stanno perdendo tutto andargli a dire no, guardate ragazzi, non è solo non possibile per le regole europee, ma è anche sbagliato. E avere il coraggio di dirlo, vi assicuro che costa, non è facile, non fa avere gli applausi, però come diceva il grande Ezio Tarantelli, alla fine la gente capisce che non butti mai la palla in tribuna, ma starai con loro e guiderai i piani di investimento seri, starai con rigore accanto a loro affinché non ci sia un piano industriale dopato, ma ci sia veramente volontà di rilancio dell'impresa. È difficilissimo, ma se non si fa il sindacalista con coraggio è meglio cambiare mestiere. Ecco, su queste parole, il fegato di andare a spiegare ai lavoratori perché moltissime volte, praticamente quasi sempre, è meglio non seguire chi dice no, ma tanto ci pensa lo Stato. È un primo maggio che a me piace, ma è un primo maggio non mi piace per questo, mi piace perché nel realismo di questi anni, nelle scelte che ha fatto la Fincis, nella gente che ha preso gli schiaffi e i pugni e gli spunti nella Fincis, c'è il fatto che lo hanno fatto in concreto, non è che lo dicono perché devono prendere gli applausi. Questa faccenda ha iniziato a incuriosirmi da qualche anno e quindi ecco perché mi piace questo spirito del primo maggio. Rispetto naturalmente lo spirito di tutti, non ho detto che come la penso io sia il giusto, però dal mio punto di vista c'è un pezzo del mondo sindacale che fa questo ragionamento, rischia, si espone, le prende, ma non si tira indietro. Grazie a Marco Bentivogli, noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qua in diretta. Nel frattempo ha finito di dare i voti ai compiti del master, il professor Roberto Ranale Maffè. Care studentesse, guardate che la tecnica, non mettete le fotografie quando gli consegnate i compiti, perché tanto lui non le guarda, lui è un implacabile stangatore, non guarda, quindi non mettete quelle fotografiucce lì, non è il caso, non è il caso, poi lui le deve cancellare dal computer, sono tutte cose complicate. Sto scherzando. Renato Cifarelli, dacci una voce, tu invece imprenditore, passerai il solito primo maggio con la frusta contro i dipendenti e la caricatura di George Grost col monocolo incastrato nell'arco sopraccigliare elevato del classico imprenditore che è solo preda della sua mania di fare denaro. Questo sarà il tuo primo maggio, immagino, no? Naturalmente. Poi quello che accade negli ultimi anni di solito è che quelli che dovrebbero essere lì che ti frustano eccetera sono a fare il weekend lungo e tu sei a lavorare in ufficio. Però dai, ti immaginetta oleografica, adesso mi dicono che è falsa, ma non ci crede nessuno, è così? No, non è vero. Però è vero che chi fa l'imprenditore lavora poi alla fine, diciamo. Ma sai che questa è una cosa che la gente non spesso dice, non lavora, figurati, comanda, è un'altra cosa, non lavora. Ma sai, per comandare devi anche... Cioè, il lavoro, il discorso è che in Italia purtroppo abbiamo la concezione del lavoro che è quella del tirare i bulloni, sì. Diciamo, lavora chi è su una linea di montaggio, chi fa la commessa, eccetera, eccetera, che è in ufficio seduto e magari lo vede lì che sta pensando, naturalmente non sta lavorando. Peccato che il nostro mestiere è pensare, non è... No, ma la questione dell'imprenditore e del banchiere, in realtà, Carlo Alberto, questo è molto interessante, perché io sono convinto che a noi mancano dei moduli fondamentali fin da quando si è piccoli a scuola. Cioè, perché dico il banchiere e l'imprenditore? Perché entrambi hanno a che vedere con una scelta di allocazione di risorse scarse in unità di tempo limitate. Facendo un conto il più possibile ragionevole, diciamo così, su come e cosa i fattori si combineranno in questa unità di tempo e cosa porteranno rispetto al capitale a tutti i fattori che tu metti insieme nel mix di cui decidi l'allocazione delle risorse, perché dipende da te. È una questione, prima ancora che lavoro vero, ma è una questione filosofica. Questi due mestieri, lo sconto del tempo, perché questo fanno, l'imprenditore e il banchiere fanno lo scontro del tempo. Infatti il banchiere centrale non mi piace perché altera il meccanismo fondamentale dello sconto nel tempo, e questo, una volta che non c'è quello, dichiaro, come si decide qual è il tasso di ritorno che sia ragionevole per me, per la mia unità di capitale, o per la mia unità di capitale umano, lavoro, o per la mia unità di capitale intangible, brevetti, idee, marchi, il ritorno del tempo, se qualcuno me la altera, è un problema filosofico. Io adesso vado in aula e vado a fare un elogio del sé, nel senso di congiunzione dubitativa, no? Che è il mistero dell'imprenditore, caro Renato. L'imprenditore è uno che sa dire sé, perché fa sì, un'ipotesi, no, deve, sul futuro. Deve dire sé. Non deve dire sì, deve dire sé, no, cioè sì, fa, sì. Fa un'ipotesi, allora, che è il mestiere dello scienziato anche. Il nostro mestiere è cosa succede se faccio questo o cosa succede se faccio quello. Ed è solo quello, cioè tu devi solo fare scelte che riguardano, per esempio, anche le persone, perché poi uno degli io ho sempre detto che il vero grande mestiere dell'imprenditore è scegliere le persone di cui si attorni. E quindi quando tu devi scegliere di solito la gente dice sì, dei leccapiedi che gli dicono sì. Tendenzialmente se le aziende che vanno bene sono tutt'altro che piene di persone che dicono sì, perché se tu hai solo persone che dicono sì non hai un valore aggiunto, hai solo persone che dicono sì. Se tu hai delle persone che sono capaci di dirti di no, hai del valore aggiunto, perché ti fanno sorgere dei dubbi. Esatto, e il se è la radice del dubbio. Sì, no, sono parlare, è un parlare evangelico, ma come dire, un po' troppo riduttivo. A me piace il se perché è un dialogo, è una conversazione infinita sul futuro, è un rimandare la palla al domani, è una conversazione sui nostri figli, no, e sui nostri infinita, infinita non sono d'accordo, perché sennò vince Demita. No, il problema è che questo processo va incardinato ferreamente invece in un orizzonte temporale dato, perché il tempo è limitato insieme alle risorse, caro Alberto. E sì, questo certo. L'imprenditore deve sapere. E lo, è lo Stato che se ne può fottere del tempo credendo, esatto, che sia eterno. Perché il debito non si ripaga. Oh. Infatti c'è un if then, e questo then mette una virgola fondamentale tra il futuro impossibile e quello invece temporalmente determinato, vero Renato? Allora, no, il problema, per dirla, voi siete molto filosofici e molto culturali, sapete, io sono un po' più basso terreno. Tu sei l'imprenditore, allora, vero. Il problema è che, no, il problema è che quando tu hai questi dubbi e hai se, ci sono alcune cose che sono a medio termine, alcune cose che sono a lungo termine, ma ne hai una marea che sono a breve termine. Già. E quindi, ad esempio, se tu vedi che l'azienda... un a caso, tipo quelle che fanno, non so, voli aerei, Un a caso, non sì. sta andando bene, già. Tu hai due possibilità, o lasciarla andare sperando, come in questo caso, che sia lo Stato che ci penserà, oppure affrontare e prendere il coro per le corna. Quello che è successo a moltissime aziende, purtroppo, negli anni della grande crisi, è che non hanno avuto, non è facile, il coraggio di affrontare le cose. Allora, non è mai bello, e questo purtroppo succede, non è mai bello ridurre le spese, che vuol dire mille cose e molto spesso anche ridurre il personale. Ma se tu non lo fai, e quando tu non affronti le situazioni o tu le cose le cerchi di guidare, oppure sono le cose che guidano te. E se le cose guidano te, succedono cose tipo l'Italia, cioè tu continui a portare avanti una compagnia che è decotta da anni, sperando che arrivi ad un certo punto qualcuno che ti salverà per l'ennesima volta. Ma non è così poi nell'industria privata, perché nell'industria privata non c'è mai lo Stato che ti viene a salvare. Se ti va bene, arriva lo speculatore che ti salva. Naturalmente, ti devo far osservare che in questo caso però sono banche private e azionisti privati che loro non hanno fatto il ragionamento, beh, allora, già salvare. I loro dipendenti sì, ma come evidente... Cioè, sull'ultimo giro devo dire che... c'è anche qualche persona... c'è anche qualche persona che conosco fra quelli che hanno fatto il giro. Però devo dire che dire privato in una situazione di quel genere lì è un po' come quando diciamo che Atlante è un fondo privato. Allora, vedi, è altra stortura italiana, bravissima. Altra stortura italiana. Sono cose spintane, ecco. come diciamo noi. Perché, cioè, perché quella compagnia, sia quella iniziale con Intesa a Air One nel 2008-2009, i Capitani Coraggiosi, raschiata da Banca Intesa, se mi consentite, mettendo insieme un bel po' di gente che o faceva affari direttamente o sperava di farli con lo Stato. Mi dispiace Banca Intesa, ma bastava vedere quanti erano i concessionari, o stavano nella sanità convenzionata, eccetera, eccetera, nella lista dei Capitani Coraggiosi. Di questo si tratta. E tanto quanto poi l'ok a Etihad, sono tutte cose che non sono figlie di sviluppi del mercato, sono tutte cose traguardate con la politica, con il commissario, il liquidatore, quindi col governo alla nascita, e poi per sviluppo. Tra l'altro, se posso dire una cosa, cioè io non è che condanni queste cose qua. Per carità, quando le aziende hanno una certa dimensione, tu hai anche dei vincoli, chiamiamoli di sistema, per cui chiamato molto spesso diventa anche difficile dire certo, no. Certo. No? Allora, insomma, non è che sto dicendo, poi dipende sempre da quanto. No, ma anch'io sono realista. Però mi piace che oggi l'intervento di Renato Cifarelli, lui nemmeno se lo aspettava, è stata una piccola conversazione su cosa è l'imprenditore, l'imprenditore del sé, e cosa non è se lo Stato diventa l'orizzonte che ne nega sia il sé, sia il quando e sia chi ci mette i soldi. Tanto li mettono i contribuenti. Che cos'è l'imprenditore? Grazie Renato, grazie, e grazie a voi compari. Ciao.